Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Spettabile redazione. È mai possibile che in Italia non si debba arrivare all'abolizione di quella barbarie, che è la caccia? Come ci si può divertire nell'esplodere piombo su un animale innocente, magari un uccellino di pochi grammi? Spesso poi, dei veri e propri delinquenti arrivano a sparare a specie protette o a qualunque cosa si muova. Quando i cacciatori si impallinano tra loro è sicuramente un momento di soddisfazione. Ancora oggi, nel 2008, lo Stato non vuole abolire la caccia, per non colpire le industrie produttrici di armi, o forse per non perdere un pugno di voti dei cacciatori. Combattiamo tutte le barbarie, caccia, vivisezione, pesca a strascico, reati ambientali, altrimenti distruggeremo l'intero ecosistema. Guglielmo. Caro Guglielmo, non sono un cacciatore e istintivamente sarei portato a darle ragione, ma bisogna stare attenti alle reazioni troppo istintive e ai ragionamenti facili. Sì, certo, la caccia muove tanti interessi economici e non va dimenticato che in questo settore l'Italia ha grandi tradizioni di fabbriche d'armi. Certo, l'industria potrebbe continuare a produrre fucili per il tiro a segno o tiro al piattello, ma la caccia non è tanto uno sport quanto una passione e sicuramente molti cacciatori non accetterebbero mai di rifugiarsi negli stand dei poligoni di tiro. E allora la caccia va certamente regolamentata, va drasticamente vietata ogni forma di inutile uccisione, ma laddove si rispettino le regole, fare di ogni erba un fascio è probabilmente sbagliato. Regole dure fatte rispettare quindi, ma soprattutto una grande opera educativa per rispettare le persone innanzitutto, ma anche gli animali e l'ambiente. Questa era una lettera selezionata tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.